molto più carine troverà. Puntata numero 5 di Firenze in vacanza, vizi e virtù dei fiorentini in ferie, mamma mia della città tutto l'anno con lo strombazzare delle macchine, con i tucani che volano da una palma a quell'altra, insomma a un certo punto sti fiorentini in ferie ci andranno, anche perché tra luglio e agosto la temperatura a Firenze è piuttosto elevata e l'umidità pare sia del 1000 per 1000, quindi insomma sembra di essere ai tropici, tant'è che cominciano certe piante tropicali a stare sui balconi anche nell'inverno. Ma insomma, uscire dalla città, uscire perché? Uscire perché così anche noi siamo in grado di sapere dove i fiorentini vanno e che cosa fanno e dicono, perché così magari se avrete da andare a Firenze quest'inverno e vi serve un argomento di conversazione, beh, ne avrete uno che li spiazzerà. Il nostro contatto a Firenze è naturalmente Laura. Laura! Ciao, ciao a tutti, ciao Giorgio. E oggi Laura ti chiediamo di aprirci il mondo della villeggiatura per i fiorentini. E comincerei da una constatazione. Usava ai tempi andati per i nobili e i borghesi fiorentini quella di andarsene in villeggiatura. Sì, c'era chi andava in Versilia, però la gran parte aveva la sua casetta o casa di campagna e lì ci si trasferiva. Certe case di campagna, per esempio dei medici o di certi nobili, sono diventate dei musei. Le case di campagna di tanti borghesi e piccoli nobili sono bellissime in giro. Qualcuna crolla, qualcuno se l'ha comprata, qualche milionario russo. Ma insomma, a Firenze esiste ancora andare in campagna? Sì, sì, sì, sì. Soprattutto perché è così caldo a Firenze che anche se hai una casa in campagna a 500 metri sul livello del mare, un po' frescheggi. E poi la seconda casa, secondo me, è utile averla vicino alla prima, perché la sfrutti meglio. Ora non ti dico di fare come al sud, che tanti hanno la casa tipo a Catanzaro e a Marina di Catanzaro, cioè una 15 minuti dal mare e una proprio sul mare. Allora forse insomma quello è anche un po' troppo, però io sono dell'idea che la seconda casa deve essere facilmente raggiungibile, perché se ti devi mettere all'anima un viaggio lungo, insomma ti passa la voglia di andarci. E poi Firenze, soprattutto negli anni 80-90, si svuotava totalmente d'estate. Adesso un po' meno, complice la crisi, complice anche il fatto che per certi versi l'hanno un po' valorizzata per l'estate, anche la città, insomma. Però ecco, c'erano degli anni in cui veramente non vedevi un'anima in giro d'estate. Com'è per un fiorentino abituato a vivere in città con le comodità della città, anche con le scomodità, ma soprattutto con il tono della città, ritrovarsi al paese, al paesello d'estate, con i vasi dei fiori in mezzo alla strada, con la gente che va a piedi, due pecore che attraversano la piazza? È bello, sì. Fa tornare un po' all'infanzia, perché generalmente era quando eri piccolo che ci passavi tanto tempo, magari dai nonni. Quando sei più grande ci vai volentieri, però ecco, dopo qualche giorno forse senti un po' l'esigenza di tornartene nel tuo caos. Comunque è sicuramente una bella sensazione. E parlando di campagna e di posti da villeggiatura, la provincia di Firenze ha un pezzo di quello che è considerato il posto di villeggiatura tra i più famosi al mondo, se non il più famoso, che è il Chianti, che fa rima con agriturismo, quindi si sono presi tutte queste case di contadini per due soldi, le hanno ristrutturate e ora le riempono di americani e di olandesi. Tra un po' arriveranno i cinesi e i russi, però loro per ora sono o a Firenze città, i cinesi, e i russi sono in Versilia, l'hanno comprata mezza. Ma insomma, vero. Il Chianti, che rapporto c'ha il fiorentino d'estate con il Chianti? Ci Guarda, va o lo lascia agli stranieri? Mi è capitato di andarci, mi sentivo quasi io fuori luogo, era pieno di stranieri, non c'era un italiano. allora, di giorno tutti in versione camminatori, quindi pantaloncini corti, bastone, insomma roba seria, no passeggiatine così, soprattutto dei paesi del nord, tedeschi, olandesi. E la sera tutti sempre stranieri che assaporano il nostro vino e insomma vanno in brodo di giuggiole. Però ci sono dei posti dove veramente non c'è un italiano, secondo me l'italiano lo sfrutta poco il Chianti. Ma sai che, dicevi, no? Agriturismi, ma lo sai che un business quale potrebbe essere? Aprire qualche albergo, perché sono talmente tanti gli agriturismi, ma pochissimi i bed and breakfast, le soluzioni un po' più a misura familiare. Dici, ci sono pochi hotel, pochi bed and breakfast. Chissà, magari hanno deciso di tenere il Chianti per il turismo di un certo livello, cioè di una certa tasca, anche perché in certe botteghe o in certi ristoranti ora in altissima stagione pelano in una maniera, e lì che uno sia olandese, fiorentino, aretino, gliene importa ben poco. Può darsi, però capisci, lì c'hanno turismo 2-3 mesi l'anno e lì devono guadagnare, l'inverno è il deserto. Abbastanza. Più in generale, lasciando il Chianti, che non è solo fiorentino, perché ne ha un pezzo Arezzo, ne ha un pezzo Siena, e andando piuttosto in altri posti che sono da cartolina quanto il Chianti e che sono comunque vicino a Firenze, mi viene in mente la provincia di Siena, è la più famosa, il paesaggio delle Crete è forse il più famoso al mondo per quanto riguarda la Toscana e la Toscana d'estate. San Galgano, ci sono posti bellissimi. I fiorentini come vedono queste località per passare un sabato, per passare una domenica, oppure effettivamente per starci più a lungo? Ma sai, molti sono ignorantissimi, cioè ci sono fiorentini che non hanno mai visitato la Val d'Orcia, che appunto è un paesaggio meraviglioso, no? Che le Crete Senesi sono un paesaggio lunare da non perdere. Molti, che ne so, preferiscono andare più lontano. Invece solamente in Toscana ci si potrebbe stare 2-3 mesi a girarla tutta. E io sono una promotrice della nostra regione, che secondo me è la più bella al mondo, e quindi per quanto mi riguarda mi piace scoprirla, mi piace diffondere quello che so, mi piace promuovere insomma anche gli angoli più nascosti e abbinare sempre la giratina al piatto tipico del luogo. La cosa anche bellissima è avere dei piatti tipici da paese a paese, cioè due paesi vicinissimi che hanno piatti tipici diversi. Abbiamo il mare, abbiamo la montagna, abbiamo la campagna, abbiamo i laghi, abbiamo tutto in Toscana. Viva la Toscana! E abbiamo l'arte. Anche tanta ignoranza. Appunto, cioè, non è possibile che un fiorentino a 40 anni mi dica non sono mai stato a Montepulciano. Ma come? Ma perché? Cioè, oppure non sono mai stato a San Galgano. Ho sentito dire veramente non sono mai stato a Volterra. Ma eppure dove sei stato? In Giappone. Ma che fai? Vai a Volterra. Il paradosso. E esatto, di paradosso in paradosso, vi hanno appena inaugurato la tranvia. Oddio. Era su tutti i giornali, una Oddio. Strombazzata gigante. E ora c'è un mega progetto e la chiamano la ciclopista dell'Arno, e praticamente andrà, secondo i progetti, dal Monte Falterona, che per inciso non butta più la sorgente dell'Arno, è secca, l'Arno prende l'acqua dagli affluenti. Ma lo sai, se andai in gita alle medie sul Monte Falterona e bevi l'acqua dell'Arno, perché lì alla sorgente era ovviamente pulitissima, e quella fu per me un'esperienza indimenticabile. Mi dice così. Almeno che la falda non si risistemi, per il momento il Monte Falterona è secco. Fatto sta, questa ciclopista arriverà dal Falterona, secondo i progetti di nuovo, arriverà a Bocca d'Arno. Ora, il nostro sindaco ha già messo in bilancio i soldi per farla. Ora a Montevarchi, sì, vabbè, l'Arno è più o meno piano, ci sono due o tre punti difficili, in altri comuni tipo San Giovanni, Valdarno, è tutta piana, tutta dritta, e la pista ce l'hanno già. Fatto sta, se questa ci fosse, io non so quanto sarà lungo l'Arno, 200, 400 chilometri, non ricordo, però qualcuno dice che se esistesse, fosse ben organizzata, con una bicicletta per esempio a pedalata assistita, in un paio di giorni si arriva a Pisa in bici. Che ne pensi di questa idea? Da posso Fiorentina. Essere un po' scettica. Scetticismo e costi, no? L'approccio fiorentino. Sono scettica anche sulla tranvia, eppure insomma una linea l'hanno finita. Io non amo particolarmente la bici, quindi dai, ben venga, non mi fa di niente. Su, poi entriamo in discorsi politici, in discorsi economici di cui non so bene i dettagli. Dunque, vabbè, tutto ciò che ha impatto ambientale positivo mi piace, l'idea, così in teoria. Quindi la tranvia, che doveva essere appunto un bel mezzo perché silenzioso ed ecologico, ha però rovinato visivamente delle zone di Firenze incredibilmente, cioè anche vedere solamente tutti i pali tra lì c'è la stazione Santa Maria Novella, uno scempio tremendo, però vabbè, ti ho detto non toccare questo tasto. Insomma, i fiorentini non si oppongono, però fanno presente delle criticità, d'accordo. Ecco, diciamo così, facciamo gentilmente notare qualche criticità. E non a caso forse che Firenze è la capitale e non altri posti. Ringraziamo Laura per queste importantissime informazioni sulla villeggiatura. Ma figuriamoci. La Toscana è piena di bellissimi posti da vedere, ma è piena anche di grandissima ignoranza. Per cui tenetene conto chi verrà a fare le proprie vacanze qui. Ringraziamo gli ascoltatori, vi rimandiamo alla prossima fiorentinata. Che dire? Olè! Buone vacanze!